Re Scegliato. Chi? Maestro Beat al Beat. Wow. Something Left volume 1, e questo è per voi. Voglio fare quattro chiacchiere con questa gente matta, senza fato, senza fiato, senza sfiato. Con la figata fiacca sfatta, dopo due Bacardi si lamenta perché senza fidanzato, ma orgogliosa di far parte delle vacche. Con i fighetti là che si dan pacche sulle spalle da ogni sera. Si raccontan palla, hanno il contratto che deve essere rinnovato, ma si pensano in carriera. E vogliono dire a me come vivere il mio tempo, a me che come un carcerato conto i giorni con le tacche che io incido sopra il muro scalcinato, chiuso nella mia galera. Mi dicono integrarsi nei necessario, fallo per sentirti vivo, ma io sto scavando un tunnel sotterraneo col cucchiaio e li sto abbandonando nella cella a fianco col loro sorriso prestampato all'ora dell'aperitivo. Vivono in magioni di carta pesta, hanno il cuore atrofizzato da prigioni nella testa. Scattan foto in piazza Arnaldo mentre sogna le Bermuda. Scappa e scava la tua via di fuga. Vivono in magioni di carta pesta, hanno il cuore atrofizzato da prigioni nella testa. Scattan foto in piazza Erbe mentre sogna le Bermuda. Scappa e scava la tua via di fuga. I loro occhi sono spenti dentro un'anima malata, fra potere e perversione di una società dannata. Melanconico pensiero in questo fiore che non sogna, cerciato, plasmato dall'ombra di Babilonia, regge i fili, giocando con il diavolo. Io non siedo con voi, non siedo al vostro tavolo. Aspetto il mio riscatto da parecchio tempo. La mia gente, la tattina stento, non la fermi con tuo tempo. Il vostro ego lo rinnego, non chiamate, lo ripiego. Siete troppi big soli, e io non sono cieco. Anche se bendato fin dal primo giorno, mangio i vostri bla bla, come primo tengo il resto per contorno. Le vostre frasi fatte, così tratti di cazzate, accuse sopra accuse contro scuse rilasciate. Voi scovati, condannati, poi sanati e rilasciati. Noi fieri di non essere bendati. Vivono in magioni di carta pesta, hanno il cuore atrofizzato da prigioni nella testa. Scattan foto in piazza Arnaldo mentre sogna le Bermuda. Scappa e scava la tua via di fuga. Vivono in magioni di carta pesta, hanno il cuore atrofizzato da prigioni nella testa. Scattan foto in piazza Erbe mentre sogna le Bermuda. Scappa e scava la tua via di fuga.